Avventurieri, sopra l'ingresso della grotta è inciso un frammento di codice magico. Ascoltate attentamente le istruzioni. Parte 1 è uguale a Im. Parte 2 è uguale a Mer. Parte 3 è uguale a Sio. Parte 4 è uguale a Ne. Parola è uguale a parte 1 sommata a parte 2 sommata a parte 3 sommata a parte 4. Ritorna parola. Si tratta di una somma di stringhe, ovvero una concatenazione di sequenze di caratteri. Unendo le quattro parti nell'ordine indicato, si ottiene la parola d'ordine richiesta dai pesci guardia. Qual è la parola che si forma sommando le quattro sequenze?